Lettera inviata a Roma dalla città pontificia di Viterbo, indirizzata a Gian Pietro Carafa, datata 18 novembre 1541. Al reverendissimo e osservandissimo signore mio Giovanni Pietro Carafa, in Roma. Signore mio onorandissimo, apprendo con soddisfazione del fallimento dell'iniziativa condotta dal Cardinal Contarini a Ratisbona. Come avevo previsto, i luterani si sono rivelati inamovibili sulla dottrina della giustificazione per sola fede e, nonostante la condiscendenza del Contarini, l'abile diplomazia della signoria vostra ha saputo prevenire e respingere l'esiziale accordo che sembrava sul punto d'essere sancito. È una delusione amara per i membri del circolo di Reginaldo Polo, sulle cui facce scure leggo oggi la disdetta. Non bisogna, tuttavia, rinfoderare la spada. Il pericolo rappresentato da queste menti è tutt'altro che debellato, ed è appunto di una nuova minaccia che mi accingo a far resoconto minuzioso, affinché la signoria vostra sappia consigliare il suo servitore sulle misure che riterrà opportuno intraprendere. I colloqui di Ratisbona hanno rappresentato il pericolo che la dottrina di Santa Romana Chiesa sulla salvezza venisse contaminata con quella degli eretici luterani. Come la signoria vostra sa, i teologi protestanti, facendosi forti di certi passi paolini mal interpretati, affermano che coloro che Dio ha prescelto come suoi santi fin dall'origine del mondo, e soltanto costoro, si salveranno nell'ultimo giorno. Il compimento di opere buone come pegno per guadagnare la salvezza eterna sarebbe dunque una pura illusione. La salvezza sarebbe garantita agli eletti non da azioni meritorie, bensì dal dono divino della fede e da nient'altro. Di conseguenza, nessuna buona opera compiuta dal cristiano potrebbe intervenire a mutare questo dono originario ricevuto da alcuni uomini, gli eletti, i predestinati alla salvezza nel disegno di Dio. Non è necessario ricordare quanto questa dottrina sia pericolosa per il buon ordine cristiano, che invece deve affermarsi proprio sulla base della libera scelta della fede o del rifiuto di quest'ultima da parte degli uomini. Del resto, non esito ad affermare che proprio la dottrina conosciuta come giustificazione per sola fede è il pilastro portante di tutte le nefandezze compiute dai luterani in 25 anni. Essa è l'architrave della loro teologia rovesciata, nonché ciò che dà loro la forza di scagliarsi contro la santa fede senza alcuna umiltà, di mettere in discussione le gerarchie di Santa Romana Chiesa, e tutto questo in nome dell'inutilità di un giudice per le azioni umane e di un'autorità ecclesiastica che amministri la regola e giudichi appunto chi è degno di entrare nel regno di Dio e chi non lo è. La signoria vostra ricorderà senz'altro che una delle prime ardite mosse di Lutero fu proprio quella di non riconoscere al Santo Padre l'autorità della scomunica. Ebbene, ciò che il Cardinal Contarini non ha potuto, ovvero storpiare e mutilare la dottrina cattolica della salvezza attraverso le opere, potrebbe oggi la sempre meno ristretta cerchia di accoliti del Cardinale Polo. Già in passato, ebbe a riferire alla signoria vostra del fascino pericoloso che esercitavano sugli uomini sprovveduti gli scritti di quel giovane ginevrino che sembra aver raccolto il testimone di Lutero nella semina dell'eresia. Mi riferisco a quel Giovanni Calvino, autore di una mefitica opera, L'istituzione della religione cristiana, nella quale si confermano e rinforzano molte delle idee partorite dalla mente eretica del monaco Lutero, prima fra tutte quella appunto conosciuta come giustificazione per sola fede. Proprio tale opera ha ispirato quella che reputo la pubblicazione più pericolosa per queste terre italiche dai tempi dei perfidi sermoni di Savonarola e che dobbiamo al genio distorto delle menti viterbesi tra le quali mi trovo. Mi riferisco a un breve trattatello la cui pericolosità supera di gran lunga la sua voluminosità, giacché vi è esposta pienamente, in un linguaggio ben comprensibile per chiunque, la dottrina protestante della giustificazione per sola fede, come se essa non contraddicesse affatto la dottrina della Chiesa. Non vi sono dubbi che si tratta del tentativo di questa cerchia di letterati e chierici di introdurre in sede dottrinale elementi che favoriscano il riavvicinamento tra cattolici e luterani, accettando completamente la dottrina della salvezza sostenuta da questi ultimi. L'autore del testo in questione è un frate benedettino, tale Benedetto Fontanini da Mantova, attualmente residente nel monastero di San Nicolò l'Arena, sulle pendici del Monte Etna. Ma le mani che hanno lavorato nella redazione del testo introducendovi traduzioni pressoché letterali dell'istituzione di Calvino, sono quelle di Reginaldo Polo e di Marco Antonio Flaminio. Le indagini condotte con estrema cautela mi hanno portato a scoprire che il cardinal Polo ebbe occasione di incontrare frate Benedetto già nel 1534, quando, in fuga dall'Inghilterra, si trovò a passare presso il monastero dell'isola di San Giorgio Maggiore di Venezia. A quell'epoca, infatti, il Fontanini risiedeva colà. La signoria vostra deve sapere che l'abate del convento di San Giorgio Maggiore, a quel tempo, altri non era se non quel Gregorio Cortese, che oggi è un fervido sostenitore degli spirituali nella curia. A questo precedente si aggiunga il fatto che due anni dopo, nel 1936, anche Marco Antonio Flaminio si recò presso quel convento, chiamatovi proprio dal Cortese, con il pretesto di curare la stampa della parafrasi latina del dodicesimo libro della Metafisica di Aristotele. Dunque, il cardinal Polo, il Cortese e il Flaminio. Tutti amici e tutti molto vicini alla politica conciliatrice del cardinal Contarini di Bologna. Ecco le menti che hanno partorito quest'opera terribile. Se frate Benedetto da Mantova ha impastato l'argilla, il circolo degli spirituali l'ha modellata e trasformata in un vaso pieno di eresia. Il titolo del trattato parla da solo, giacché riprende letteralmente un'espressione usata più volte da Melantone nei suoi Loci Comunes. Il beneficio di Cristo, ovvero trattato utilissimo del beneficio di Gesù Cristo crocefisso verso i cristiani. Questo è il titolo dell'opera, la cui redazione viene ultimata in questi giorni dal Flaminio e nel quale è affermato chiaramente che sarà bastante la giustizia di Cristo a farci giusti e figliuoli di grazia, senza alcune nostre buone opere, le quali non possono essere buone se, prima che le facciamo, non siamo noi fatti buoni e giusti per la fede. La Signoria vostra può ben giudicare la minaccia che la diffusione di idee del genere può rappresentare per la cristianità, e in particolare per la Santa Sede, qualora riscuotessero consensi. Se poi il libercolo trovasse plauso tra i notabili della Chiesa, potrebbe scoppiare un'epidemia di consenso per i protestanti in seno alla Chiesa di Roma. Non oso pensare quali odiose conseguenze ciò potrebbe avere sulla politica della Santa Sede nei confronti di Carlo V. Mi appresto dunque a ricevere nuove direttive dal vostro ingegno. Certo che saprete ancora una volta consigliare nel migliore dei modi questo servo zelante. In fede mi raccomando, baciando le mani di Vostra Signoria. Di Viterbo, il 18 novembre 1541, il fedele osservatore di Vostra Signoria, Q.